9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 10 di maggio e il tema che affrontiamo oggi è un tema che ha a che vedere con i mari, come si fa il trasporto di passeggeri, di auto, di turisti, ma anche di chi naturalmente sta dalle isole del nostro Tirreno Mediterraneo e deve andare e venire dall'Italia, come si fa a gestire il servizio passeggeri e merci quando da anni, da molti anni, da decenni, la situazione è stata adulterata, per così dire, questo direbbe l'economista, quindi in questo caso parla più l'economista che il giornalista, perché sul meccanismo fondamentale di come funziona questo servizio economico, cioè quello del trasporto dei passeggeri e delle merci, è intervenuto per tanti anni lo Stato, ed è intervenuto lo Stato però non su piede paritario rispetto a come può un'azienda pubblica rispetto a una privata offrire un servizio, lo ha fatto con pesantissimi sussidi, giustificati o per dare una mano ai residenti in Sicilia, in Sardegna e così via, oppure perché naturalmente il costo del lavoro, delle sue piante organiche, della flotta pubblica, dei traghetti era superfetato e quindi ovviamente bisognava mettere mano al portafoglio per reggere i conti di Tirrenia, perché di quello stiamo parlando, compagnia che poi è esplosa in un enorme buco, come Alitalia per essere chiari, che è poi stato risolto cedendone quote alle regioni, regioni come la Sardegna, come la Toscana, come la Campania, e poi con quello che restava, con un'asta di privatizzazione andata prima deserta, ce ne siamo occupati, ma senza andare dietro al seguito della vicenda in sé di Tirrenia, che è uno scandalo a parte, andiamo direttamente al punto. Ora siamo sempre più vicini alla stagione estiva e che cosa avviene? Avviene che nel primo anno in cui i privati, che per tanto tempo avevano detto allo Stato basta con questi sussidi pubblici sulle rotte commerciali grazie ai quali la flotta pubblica pesa sulle spalle del contribuente e ci fa concorrenza impropria, dopo che per tanto tempo la proposta dei privati non era stata accolta, cioè di un'asta vera di privatizzazione di Tirrenia senza smembrarla in parte e darla alle regioni prima, per consentire ai privati di gestire le rotte commercialmente più appetibili, la soluzione che si offre concretamente a voi, che dovrete adesso, moltissimi di voi per esempio, come tutti gli anni si sono trovati nelle settimane pre-Pasqua, dall'inizio dell'anno e soprattutto adesso immediatamente dopo Pasqua, a prenotare magari per le settimane di agognate vacanze in Sardegna, ecco che la situazione di fronte alla quale vi siete trovati è una situazione di rincaro molto forte. Il rincaro molto forte al quale, come ovvio, non si può chiedere a voi di capire come mai, per quale ragioni, se sia per preminente causa dello Stato che per tanti anni ha drogato il mercato con i suoi sussidi, oppure invece se sia per colpa del venir meno dell'offerta pubblica che costava così poco rispetto a quella di quest'anno, ma il fatto è che vi trovate di fronte a prezzi per una cabina a due posti o per una cabina a due per i vostri due o tre figli, se siete una famiglia più numerosa, eccetera eccetera, che magari possono passare anche da 250 o 270 o 290 euro fino a 800 euro, magari 1000 euro, e questa cosa sui giornali è naturalmente esplosa ed ha provocato qualche reazione. Tra le tante reazioni, ecco quella da cui partiamo oggi, perché di fronte all'eccesso di prezzo dei privati, per così dire, il presidente di una regione, il presidente della regione Sardegna, ha detto: beh, intanto io con quello che ho, quello che mi resta della flotta pubblica, io sono convinto di poter offrire un servizio che assolutamente ripristina condizioni di prezzo più favorevoli a coloro che devono venire in Sardegna per l'estate. Intanto cerchiamo di capire le caratteristiche di questa offerta e di questa vicenda, poi naturalmente le interpretazioni, avrete capito che io ho la mia interpretazione, ma non voglio essere così matto dall'anteporre la mia spiegazione della responsabilità del mercato rispetto al fatto che non possiamo far finta di niente. gente e pretendere che la gente non esploda, trovandosi prezzi che aumentano nell'ambito del 90, 100, 150, 200% e addirittura fino in taluni casi al 300% e oltre, perché è ovvio che si tratta di aumenti tali per cui per molti può fare quasi la differenza se a quel punto potersi permettere la vacanza oppure no, e quindi c'è un impatto innanzitutto per le tasche di quegli italiani e per le loro condizioni di vacanza, ma poi a quel punto un punto interrogativo anche per l'economia turistica, che poi naturalmente delle loro scelte turistiche di vacanza vive. Allora, vediamo di capire questa faccenda con i nostri ospiti. Abbiamo all'inizio esattamente il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, che ringrazio e saluto. Buongiorno presidente. Buongiorno dottor Giannino, grazie a lei dell'invito e dell'opportunità che mi viene riservata. Poi abbiamo Massimo Puzzo, che è presidente della Confindustria della Sardegna. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Bruno Dardani, che dirige la rivista Capo Horn e spesso è il nostro ospite quando si tratta di problemi di infrastrutture e trasporti. Buongiorno Bruno Dardani. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, presidente Cappellacci, innanzitutto ci fa capire questa proposta come nasce e se è fondata l'obiezione di chi dice certo, mettete mano al portafoglio pubblico, ma tanto non state in piedi dal punto di vista economico. Allora no, non è affatto fondata. Lei ha ricostruito puntualmente quello che è successo nei mesi scorsi. Io aggiungo che sin dalle prime settimane, quando abbiamo riscontrato i consumatori, i turisti, tantissimi sardi hanno iniziato a protestare, c'è stata una protesta che pian piano è montata sui social network, sui giornali, sulle televisioni, abbiamo immediatamente, nell'immediatezza, esattamente in data 26 gennaio, fatto una prima segnalazione all'antitrust. Quindi nel mese di marzo abbiamo convocato in regione un tavolo con tutte le compagnie, Tirrenia compresa, per cercare di capire le motivazioni di questi aumenti e per tentare anche attraverso un minimo anche di moral suasion, proprio una conciliazione degli interessi e quindi un ripensamento per le compagnie marittime. Non abbiamo sortito alcun risultato, siamo stati costretti ai primi di aprile a proporre formalmente ricorso all'autorità antitrust. Allora noi riteniamo che si siano violate le regole del libero mercato e l'intervento della regione non è un intervento che vuole ripristinare il cosiddetto servizio pubblico onerato o che in qualche modo altera i meccanismi del mercato, perché noi abbiamo deciso di partire intanto in via sperimentale, questo è importante dirlo, lo facciamo attraverso la nostra controllata che è la società Saremar, che fino ad oggi si è occupata dei collegamenti da e per la Sardegna e le isole minori e che però a norma e statuto può svolgere anche collegamenti con la penisola. Noi lo facciamo con un meccanismo che intanto si basa su un principio contabilità separata per dimostrare la sostenibilità dell'iniziativa. Riteniamo cioè che l'iniziativa si regga sulla base delle regole del mercato con l'incontro tra domanda e offerta e che sia possibile chiudere con equilibrio di bilancio. Abbiamo dato mandato alla Saremar perché avviasse tutte le procedure per coprire due almeno fra tre tratte che abbiamo indicato, che sono le tratte che collegano la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-meridionale e la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-settentrionale, oltre che Sardegna nord-occidentale con l'Italia settentrionale. Poi se vuole le do anche esattamente le ipotesi concrete. La Saremar interviene sul mercato attraverso il nolo cosiddetto armato delle navi che vengono reperite attraverso l'utilizzo di broker specializzati e cerca di intervenire ripristinando quelle regole, o meglio quelle condizioni che vigevano sino all'anno scorso, due anni fa, e che erano condizioni che noi riteniamo siano assolutamente sostenibili. Ci sembra strano che sino a quel momento, cioè sino all'anno scorso, gli operatori privati siano stati capaci di dare una certa offerta che vedeva determinati prezzi e che all'improvviso, quando viene meno in qualche modo quella offerta di Tirrenia con tutti i problemi, perché lei ha citato una serie di criticità che condivido e voglio anche premettere che io sono, ma per valori, contrario all'intervento pubblico in economia, però qua si sta verificando una situazione che ha del paradossale, ovvero sia quell'intervento pubblico viene fatto per cercare di ripristinare le condizioni di libero mercato. Ecco, perché l'accusa che è mossa al, in questo, attraverso l'istanza all'antitrust è quella precisamente, non per così dire dell'illecito profitto, perché non è in contestazione il fatto che i privati, come ovvio, ci guadagnino, ma un punto di domanda sul fatto che gli stessi privati, che non avevano bilanci in perdita, ma che anzi avevano nei bilanci in profitto, uno dei punti di forza della loro richiesta allo Stato in molti anni di dismettere la Tirrenia e quindi l'indebita concorrenza al privato fatto con il sussidio pubblico, poi al venir meno dell'offerta pubblica sussidiata realizzino in maniera contestuale, tanto da far immaginare a chi ha presentato l'istanza che possa essere un cartello, aumenti di quelle proporzioni. Allora, la controparte privata noi abbiamo, l'abbiamo chiamata, perché figuratevi se Giannino non fa parlare i privati. Noi ieri abbiamo passato praticamente l'intero pomeriggio nel tentativo di far parlare Mobilines, nel tentativo di far parlare grandi navi veloci e così via, ma non abbiamo, con mia grande sorpresa, ottenuto nessuno di loro, chi per una ragione, chi per un'altra, non perché ci dichiarassero di non voler essere presenti. Mi ha un po' colpito però, perché il rilievo delle accuse, dell'ipotesi di cartello sollevato all'antitrust è tale che secondo me, insomma, io qualche portavoce l'avrei mandato. Comunque, detto questo, io chiedo al presidente di Confindustria della Sardegna, Puzzo, dal punto di vista complessivo degli equilibri economici della Sardegna, cioè tenuto conto dell'impatto che questa vicenda può avere e avrà sul turismo da una parte, dall'altra della posizione di chi privatamente per anni ha detto possiamo fare meglio dello Stato senza i soldi del contribuente, e dall'altra di questo scatto di prezzi tali per cui la Sardegna come istituzione si vede costretta a questa iniziativa. Ecco, l'opinione che si fa al presidente e la presidente di Confindustria a livello regionale qual è? Dove sta la ragione? Dove è il torto? Quali interessi bisogna tentare di preservare innanzitutto? Ma guardi, io innanzitutto la ringrazio e mi scuso anticipatamente perché sono in auto, mi sono fermato al volo e poi dovrò salutarvi. Ne approfitto, dottor Giannino, perché le volevo fare i complimenti, perché io ero uno di quei 5.000 imprenditori presenti sabato a Bergamo. Vabbè. Grazie. Sì, le faccio complimenti perché è stato veramente col suo piglio decisionista, ma anche con quel velo di simpatia, ha condotto benissimi lavori. Un po' bersaglierescamente, non da alpino ma da bersagliere l'ho fatto, levando la parola, sì, insomma, sì. È stata una bella cosa. Efficientissimo, e ne approfitto, anzi la ringrazio perché mi fa intervenire, perché ho anche modo di chiarire qual è la nostra posizione. Naturalmente saluto anche il presidente Cappellacci che è in linea. Perché guardi, la settimana scorsa c'è stata il tema è naturalmente è di grande rilievo, ci sono state anche delle polemiche sui quotidiani e che non ho assolutamente condiviso, nel senso che noi abbiamo fatto un nostro documento dove abbiamo espresso la nostra posizione e alcuni organi di stampa, in particolare uno, ha titolato la Confindustria Sardegna è contro Cappellacci. Allora, noi non siamo contro Cappellacci, noi non eravamo contro Soru, perché è lo specifico questo, perché il tema dei trasporti e dei collegamenti da e per la Sardegna è all'ordine del giorno da anni, come lei l'ha detto, sì. Ecco, però non si riesce mai a trovare delle soluzioni strutturali. Quindi noi la cosa che abbiamo detto, con penso equilibrio e con l'autonomia che ci contraddistingue, è proprio quella di mettere in evidenza un aspetto che è quello di un intervento che secondo noi in questo momento forse è stato preso, come dire, in una situazione di emergenza che teoricamente, e lo sottolineo, teoricamente potrebbe anche portare dei risultati, e questo è il grande auspicio che noi comunque facciamo e ce lo auguriamo come sardi, però il problema è che vogliamo capire, penso tutti vogliamo capire quale può essere l'intervento strutturale che superi il problema proprio della continuità territoriale. Perché guardi, lei oggi si parla tantissimo di turismo, lei giustamente ha citato, anche ha fatto così un passaggio chiedendo anche agli ascoltatori che probabilmente verranno in Sardegna in che situazione si troveranno, ma guardi che al di là del singolo settore, cioè veramente il problema di trasporto e dei collegamenti ha una ricaduta così ampia e profonda su tutto l'intero sistema economico, cioè noi che rappresentiamo le poche industrie che ormai sono presenti in Sardegna, cioè le faccio l'esempio del manifatturiero, ma lei sa che al di là dei turisti durante l'estate siamo costretti ad avere le le merci sia in ingresso che in uscita, che giacciono nei porti, perché non c'è la possibilità di far entrare le merci in Sardegna e di farle uscire, perché si dà priorità, giustamente, non lo so in questo momento, d'estate si dà priorità al turista e le auto al seguito del turista, quindi è un problema, e questa è la nostra analisi che abbiamo fatto con tanto di documenti, di proposte, ripeto, sia alla precedente amministrazione regionale che a questa, cercando di dare il nostro contributo per capire in che modo poter superare il problema dal punto di vista strutturale, perché questo è un problema che comunque abbiamo da anni e si cercherà di, insieme, spero, di poterlo superare. In questo problema contingente si sta cercando di affrontarlo con questo provvedimento. Noi non conosciamo il Presidente e abbiamo fiducia nel Presidente, perché sostiene che comunque evidentemente c'è un piano industriale che possa giustificare questo intervento e che non possa poi portare alla fine dei costi sui cittadini, quindi auspichiamo che questo intervento possa dare i suoi frutti, ma comunque rimandando il tutto dopo la stagione estiva, per cercare di trovare una soluzione definitiva che risolva appunto strutturalmente questo problema. Grazie al Presidente della Sardegna. Grazie. E ricordate che questo punto che ha sollevato, cioè il punto dei costi aggiuntivi dei trasporti e della logistica per parti rilevantissime del nostro paese, e per esempio anche cambiando regione, ma il problema è tutto analogo, alla radice del problema risolto in tanti anni, per esempio, il Termini Imerese, che ha portato poi la Fiat a disinvestire a Termini Imerese, come sappiamo, proprio per il risolto problema del trasporto, visto che oggi la produzione automobilistica è fatta ovviamente di pezzi, parti, pianali provengono da diversi stabilimenti del mondo. Ecco, quindi quando poi il trasporto e la logistica diventa una voce di aggravio strutturale nell'ambito di 10, 20, 30, 40 punti rispetto ad altri insediamenti, è ovvio che si disinveste. Disinveste all'interno dell'Italia, ma questo è una ragione di fondo dell'andamento poi della minor intensità industriale di una parte del nostro paese, e ovviamente nelle isole questo problema si concentra. Dardani, dal punto di vista di un osservatore specializzato come lei di tutta la vicenda dell'armamento pubblico, dei privati in concorrenza e oggi dell'esplodere di questo problema, al momento in cui finalmente poi il nodo Tirrenia era esploso in una specie di fungo atomico, ma era esploso, e naturalmente l'impatto che arriva però ai cittadini, ai turisti, alle imprese eccetera, è quello di aumenti di prezzo così elevati che molti tornano a dire: a ridate c'è il pubblico, in parole povere. E dunque, Dardani? Ma secondo me esiste su questa vicenda dei traghetti un peccato originale che l'Italia non riesce a superare, devo dire in grande compagnia, perché anche la Francia con la compagnia SNCM e la Spagna con Transmediterranea ha fatto fatica a ricostituire un mercato sano. Esiste solo una soluzione probabilmente su questo problema di mercato: con la volontà di salvare Tirrenia, con la necessità di salvare i posti di lavoro, con la necessità di fare una gara un po' anomala sulla Tirrenia, sostanzialmente si è prolungato il delirio di un mercato che non esiste. E la risposta l'ha data la Grecia, l'ha data tanti anni fa sui traghetti. Ha detto: è vero, ci sono delle economie deboli e sono le economie delle isole, non si può gravarli di un costo di trasporto superiore a quello che pagano gli altri cittadini, perché sennò si abbatterebbero queste economie. E in questo l'intervento del Presidente Cappellacci ci sta tutto. Allora la soluzione dove sta? Si fanno delle gare di appalto nelle quali si fissa un contributo entro il quale che viene erogato dal pubblico, ma sta al privato stare dentro e far quadrare i suoi conti sulla base di quel contributo. Qui si continua a giocare con carte sostanzialmente false. Si fa una gara per la Tirrenia, viene fuori una cordata che sostanzialmente è un cartello, c'è una totale assenza di dialogo fra le regioni e i privati, esplodono i prezzi, ma non potrebbe accadere altrimenti, perché il mercato qui continua a non esistere. Benissimo, ora andiamo in pubblicità e poi torniamo anche con ospiti aggiuntivi. Eccoci tornati in studio, martedì 10 maggio, stiamo parlando del caro traghetti, l'abbiamo centrato sul caso della Sardegna, il Presidente Cappellacci della Sardegna con noi ci ha spiegato le ragioni che hanno indotto la Sardegna a un esposto all'antitrust per l'aumento delle compagnie private al venir meno della compagnia pubblica dopo anni di polemiche e poi di privatizzazione mal condotta anch'essa da parte dello Stato di Tirrenia. Alitalia, la compagnia sussidiata, rispetto alla quale i privati per anni hanno detto coi sussidi pubblici ci impediscono, ci fanno impropria concorrenza. Ecco che poi al primo anno si arriva ad aumenti dell'ambito del 100%, 200%, 300%, e di fronte a questo la Sardegna dice no, è esposto l'antitrust da una parte e dall'altra, con quel che restava, cioè con la parte di Tirrenia, la Saremar data alla Sardegna, che si occupava dei collegamenti solo tra la Sardegna e le isole minori, noi intanto dobbiamo pensare anche a un'offerta costruita per tutelare il diritto a prezzi che siano alla portata del diritto di trasporto dei sardi e dei turisti che vogliono venire qui, quindi offriremo anche dei servizi sulle maggiori tratte nei confronti della penisola. Io ripeto, i privati non sono presenti qua, malgrado che noi li abbiamo chiamato anche Confitarma. Sicuramente credo a quello che mi hanno detto, avevano tutti molto da fare, ma è un po' singolare che di fronte a un'accusa del rilievo di quella mossa dalla Sardegna nei confronti delle compagnie private tutti abbiano improvvisamente da fare questa mattina. E io lo spiego naturalmente agli ascoltatori, visto che non potete immaginare certo che questa sia una radio che ha dei pregiudizi ostili rispetto alla parte privata. Noi siamo qui per farvi capire il problema. Certo che gli aumenti sono molto rilevanti e fanno rimpiangere a molti passeggeri esattamente la situazione di prima. Iniziamo con qualche telefonata e poi passiamo con gli ospiti aggiuntivi. Paola, che ci chiama da Milano, per esempio. Prego, Paola. Pronto, buongiorno, piacere di parlare con lei, dottor Giannino. Sì. Ascolti, io sono un agente immobiliare, ho 62 anni, ho un'agenzia immobiliare qui a Milano. Mio fratello, che è un costruttore di turistico in Sardegna, sta costruendo e costruisce delle cose bellissime. Sto facendo una promozione in un centro commerciale di Milano dove tutti si fermano estasiati a guardare le foto dei paesaggi, delle case, però la risposta che mi danno è no, non potremo mai acquistare, i costi per venire, andare e tornare in Sardegna sono così elevati che non potremo permetterci di farlo a lungo e quindi rinunciamo all'acquisto. Quindi lei sente gente che addirittura fa giustifica un mancato investimento immobiliare in Sardegna per i costi. Sì, dottor Giannino. Va bene, questo ho capito benissimo. Grazie Paola, sentiamo Davide che ci chiama invece da Reggio Emilia. Prego Davide, la sua esperienza? Sì, la mia esperienza è che sono sempre andato in Sardegna fuori stagione pagando di traghetto 200 euro o poco più, e quest'anno mi sono trovato una spesa minima di 500 e quindi avevo tranquillamente rinunciato al mio viaggio annuale in Sardegna. Come me hanno rinunciato anche sentendo alcuni amici, diverse altre persone, salvo che è spuntata Ryanair, che non è un traghetto, ma è una compagnia che evidentemente sa come operare mettendo a disposizione tariffe molto competitive, e ho trovato un buon volo Ryanair per la Sardegna e così vado in Sardegna. Ma se non fosse stato per quello, io costava meno andare alle Canarie, che tutto dire. Costava meno andare alle Canarie, ci dice Davide da Reggio Emilia, e questo effettivamente, vista la percentuale di rincari, è un'osservazione molto sistematica tra voi, anche negli sms che vengono al 349-238-6666, cioè le condizioni di prezzo comparato che molti di voi hanno condotto dall'inizio dell'anno per la rituale decisione se andare in Sardegna o meno. Oggi parliamo della Sardegna, ma vale un po' anche per il resto dell'isola del Mediterraneo, il Tirreno italiano, vi ha condotto a dirci: ma com'è che improvvisamente, per quanto fosse intollerabile che fossero i contribuenti a pagare i prezzi troppo bassi evidentemente della flotta pubblica, ma com'è possibile che poi i privati, che dicevano che il servizio poteva essere offerto in condizioni migliori a prezzi più competitivi di mercato, è un conto, ma se il prezzo di mercato è 300% in più, qui la soluzione non deve essere né che noi paghiamo i soldi della flotta pubblica con troppo personale, ma né tantomeno possiamo credere che davvero siano condizioni di mercato quelle di farci pagare biglietti più bassi per andare in Sardegna rispetto a quanto si paga a un privato per andare alle Canarie. E questa è una bella domanda che a me, devo dirvi la verità, avrebbe fatto molto piacere sottoporre esattamente ai privati. Però io i privati purtroppo stamattina in trasmissione non ce l'ho, e quindi tutti siete abilitati, con mio grande dolore, a pensare male. Sentiamo Vincenzo che ci chiama dalla provincia di Napoli. Prego Vincenzo. Salve, buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Io facevo una riflessione, vale a dire che penso che sia importante che lo Stato intervenga nei servizi pubblici quando vi è il sospetto che i privati lasciati, diciamo, da soli a gestire questi servizi possano tra di loro fare cartello, e quindi che lo Stato intervenga per, diciamo, calmierare i prezzi, offrire un servizio. Però lì c'è l'antitrust, eh. Perché lo Stato deve calmierare? Cioè, un conto è, se, perdono, glielo dico non per contestare lei, ma per capire in urla a ragionare. C'è un'autorità preposta a evitare i cartelli, quindi in questo caso, per esempio, la Regione Sardegna, ce l'ha spiegato Cappellacci, fa esposto all'antitrust, ci penserà l'antitrust. Poi, altra questione diversa è: c'è bisogno di un incentivo pubblico per il trasporto, per particolari tratti, perché altrimenti si lede un diritto, quello alla piena mobilità, un diritto costituzionale, eccetera, eccetera, come per esempio è riconosciuto nel caso della Sardegna. Allora, in quel caso c'è bisogno di un contributo, ma il contributo andrebbe offerto su piede paritario a privati che volessero esercitare l'offerta del servizio, capisce? Quindi anche in questo caso, lei dice invece no, dice una terza cosa, lo Stato deve calmierare i prezzi, Vincenzo, prego. Io penso questo, penso che talvolta non basti solo un incentivo, perché anche l'incentivo può in qualche modo, diciamo, indurre i privati magari a una finta concorrenza. Io penso proprio che il compito dello Stato in alcuni particolari servizi considerati di particolare utilità, come possono essere i trasporti, la sanità, insomma dei servizi, diciamo, come diceva lei, anche a livello costituzionalmente garantito, certo, lo Stato abbia la possibilità, anzi debba in alcuni casi intervenire, perché non sempre l'incentivo può essere, secondo me, la soluzione giusta, anche perché i privati potrebbero, torno a ripetere, fare una finta concorrenza, e abbiamo l'esempio adesso dei prezzi super aumentati nel momento in cui è venuto meno, diciamo, un servizio che lo Stato offriva. Grazie Vincenzo, devo dire, molti voi chiedono, ma come li giustificano i privati? Va bene che non sono venuti, ma Genio, ricordaci come fanno a giustificare aumenti del 200-300%. Bene, le ragioni addotte dalle compagnie private sono essenzialmente due. Primo, il caro petrolio, che è nell'ambito del 30%, ripeto, dall'inizio dell'anno. Il secondo è però anche l'aumento dei costi portuali, per esempio Olbia più 225% negli ultimi 4 anni. Sono essenzialmente due le ragioni adotte dalle compagnie private per giustificare gli aumenti di questa stagione. Allora, ci hanno raggiunti come ospiti Enzo Manunza, che è responsabile trasporti della FIABET, cioè la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo. Buongiorno a Manunza. Buongiorno dottor Giannino e ai suoi ospiti. E Arnaldo Boedu, che è il segretario regionale Sardegna della CGIL Trasporti. Buongiorno Boedu, e comincerei da Boedu per dire qual è la sua opinione sull'iniziativa assunta dalla regione Sardegna e la sua opinione in merito a questi aumenti dei prezzi invece offerti dalle compagnie private. Prego Boedu. Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori. Sì, rispetto a questo, all'iniziativa della Sardegna, il problema va inquadrato in questi termini. Non essersi mossi per tempo in questa materia fa sì che adesso ci sia da parte della Regione una soluzione che non è chiaramente definitiva, una soluzione provvisoria, una soluzione tampone, che deve cercare di risolvere un problema contingente che ci piove da capo e collo in un periodo estivo che, insomma, la Sardegna vive di questo periodo. E quindi da una parte c'è la soluzione tampone, in maniera che i turisti continuino a venire in Sardegna, ma dall'altra però, insomma, dobbiamo lavorare e dobbiamo progettare per il futuro ad avere una soluzione definitiva. La soluzione definitiva, lo dico subito, è un bando di gara internazionale dove vengono predisposti oneri di servizio pubblico e quindi tipologia di naviglio, la frequenza delle rotte che dovranno essere più d'estate e meno d'inverno, chiaramente le tariffe che dovranno essere agevolate per i residenti, perché noi abbiamo il diritto, che lo diceva lei prima, che è garantito dalla Costituzione, il diritto alla mobilità, e una continuità nel servizio, perché il servizio deve essere garantito ai sardi 365 giorni all'anno, sia per quanto riguarda le merci e sia per quanto riguarda i passeggeri. A fronte di questi oneri di servizio pubblico, chiaramente dovrà essere corrisposta una compensazione economica da quantificare rispetto a il periodo invernale, dove le navi chiaramente non viaggiano a pieno carico e gli armatori potrebbero rimetterci, ecco, da questo punto di vista. Quindi questa è la soluzione definitiva. La soluzione però che sta adottando la Regione Sardegna, siamo molto perplessi, la vedremo come CGL alla fine della stagione. Per quale ragione? Se andrà bene come noi speriamo, ci auspichiamo, ci mancherebbe altro, non aspettiamo altro, non ci saranno problemi. Se però la Regione dovrà compensare in qualche misura con altri sistemi, insomma, gli armatori privati stanno già preparando un ricorso. Ultima cosa, la Regione Sardegna noi come organizzazioni sindacali chiediamo che si faccia carico almeno del 51% della Saremar, che è la compagnia che era collegata a Tirrenia, che collegava le isole minori, quindi la Maddalena e Carloforte. Noi chiediamo che quella venga considerata trasporto pubblico locale e venga fatta una divisione di navigazione apposita governata dalla Regione Sardegna. È già stato fatto con il trasporto pubblico locale e all'azienda regionale di trasporto pubblico locale è in attivo, è nel 2009 e nel 2010 che è in attivo questa azienda, quindi si può fare trasporto sia su terra che su mare non rimettendoci tramite le casse dei cittadini. Questa Saremar aveva già in bilancio 11 milioni di euro per il rinnovo del naviglio. Non vorremmo che la Regione Sardegna utilizzasse parte di questi soldi, tutti questi soldi, per questi mesi, per i mesi estivi. Questa sarebbe una iattura per noi sardi da questo punto di vista. Bene, quindi una posizione strutturale, sentite, che dice che non è solo una soluzione tampone quella che serva, ma una vera e propria riorganizzazione, sia pure su diverse basi, della presenza pubblica. Sentiremo poi Cappellacci su questo. Intanto sentiamo Manuzza. Che impatto può avere questa polemica, questa iniziativa come soluzione, sia pure tampone, rispetto alla stagione in arrivo, Manuzza? Ma guardi, noi siamo rimasti, come dire, piuttosto stupiti e accogliamo con favore quanto fatto in questo momento dal governatore e dalle istituzioni, in quanto è una situazione che per chi risiede in Sardegna, che conosce bene i problemi che sono legati ai trasporti, siano essi nave sia aereo, è una situazione che ormai lunga nel tempo, quindi trovarci all'inizio della stagione in una situazione veramente drammatica, abbiamo visto Pasqua, dove rimaniamo un attimino tutti perplessi per quanto concerne una serie di eventi che ci portano a soffrire nei confronti delle nazioni vicine, quindi non parlo solo della Sardegna ma di tutto il contesto nazionale, sentire che le istituzioni prende un'iniziativa sicuramente di buon auspicio e di augurio. È chiaro che le conseguenze le possiamo solamente valutare a fine del percorso, però è anche vero che è un discorso di far capire un attimino a tutti quanti che il governo c'è e che i problemi vengono affrontati concretamente, e questo chiaramente è una cosa che noi a cui dedichiamo un'attenzione molto particolare. Il discorso da affrontare è diverso poi quando si deve affrontare la stagione, oltre alla stagionalità, perché noi non possiamo parlare solamente di residenti sardi e di stagionalità, noi dobbiamo lavorare per quanto concerne i 12 mesi all'anno, perché siamo nel Mediterraneo, tutta l'Italia gode di un clima ottimo, perché se parliamo di far arrivare il nord Europa, e chiaramente qui trovano una situazione che è valida, che possa soddisfare le loro ambizioni, cioè i loro desideri. È chiaro che noi il bagno non lo facciamo perché siamo climatizzati sulla cosa, però abbiamo un territorio che è ricco di siti archeologici, di spiagge, di centri storici, quindi quello che sta facendo, è vero, questa amministrazione, questa attuale amministrazione, è di rivalorizzare tutto il territorio, quindi noi lo vediamo in fatto positivo. Che i problemi ci siano, noi li abbiamo evidenziati nel tempo e tutto quanto. È chiaro che oggi ci troviamo di punto in bianco a prendere delle decisioni, ad affrontare un discorso che chiaramente è molto importante per tutta l'economia, per tutto quanto. Questo è quanto noi vediamo, e stiamo attenti al problema e diamo la nostra ampia disponibilità per poter essere presenti insieme alle istituzioni. Molto bene, abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio. Allora, sentiamo un pochino la reazione finale, per così dire, di Cappellacci. Sentite le valutazioni del presidente di Confindustria, del presidente della CGIL Trasporti, della valutazione di chi poi un pochino segue nella complessità l'intera filiera del settore del turismo. E quest'estate qual è l'indicazione che si sente di dare a chi aveva per il momento sospeso le prenotazioni? Di aspettare, perché ci saranno nuove offerte in arrivo, calmierate per così dire, sia pure nell'ambito di questa iniziativa tampone che ci ha spiegato, presidente? Allora, quello è uno degli aspetti critici, perché ovviamente questa iniziativa da un lato tenta di trovare una soluzione, dall'altro, mi rendo conto, ha un po' rallentato il processo e le prenotazioni. Posso dire che dal 15 di maggio, quindi tra 5 giorni esatti, sul sito della Saremar sarà possibile effettuare le prenotazioni per questo nuovo tipo di offerta. Vorrei poi tornare un attimo sulle osservazioni che sono state fatte rispetto alla soluzione strutturale cosiddetta. Intanto mi sia consentito di premettere che il problema del trasporto marittimo attanaglia le famiglie sarde, l'economia sarda da più di 50 anni, sì, quindi è un problema leggermente antico, è che questa situazione si è venuta a creare perché noi siamo convinti sia stata l'alterazione delle regole del mercato, quindi è un po' difficile che il sistema sia capace di intervenire nell'immediato quando ci sono meccanismi di questo tipo, e tanto più quando è un sistema malato da tanti anni. La malattia nasce da una gestione tirrenica che, insomma, voglio dire, il cui esito finale è sotto gli occhi di tutti, quindi è già una spiegazione, e poi dal fatto che c'erano una serie di condizioni che impedivano di accedere a quelle soluzioni che sono state correttamente richiamate, per esempio con riferimento alla Grecia, e che sono le soluzioni strutturate ormai accolte e riconosciute anche dall'Unione Europea, perché è vero che c'è una condizione di insularità della quale i sistemi devono prendersi carico e della quale bisogna tener conto per consentire a tutti il diritto alla mobilità, e questo si risolve con quei bandi internazionali che sono stati citati, che sostanzialmente, per semplificare, erogando un contributo ai privati che intendono partecipare, può assicurare quelle condizioni di servizio che danno garanzia per il trasporto. Bene, questo purtroppo non è stato possibile fino ad oggi, e ancora oggi non è possibile perché c'è un altro vizio nella procedura tirrenia, che è quello di una proroga delle convenzioni, peraltro censurata con ricorsi alla Comunità Europea, per la quale c'è una procedura di infrazione in corso, che non consente, in costanza di convenzione contributata, diciamo così, non consente di avviare le gare internazionali. Quindi io sono assolutamente d'accordo su questo, e devo dire che accanto alla denuncia all'antitrust, accanto alla iniziativa diretta, che voglio sottolineare è un modo concreto di affrontare il problema, a fianco a queste due iniziative ce n'è una terza, che è il ricorso rispetto anche a questa impostazione che è stata data, perché noi riteniamo che violi ulteriormente le regole del quadro complessivo di quelle che sono le possibilità che vengono che sono possibili anche sulla base della normativa europea, e che possano creare quelle condizioni di corretto funzionamento del sistema. Poi c'è da dire, io ho sempre, come dire, visto con favore la privatizzazione, perché sono certamente per l'impresa, per la possibilità all'impresa di operare e non per l'intervento del pubblico, però ribadisco, in questo è un caso eccezionale. Tanto è vero che la Saremar noi pensavamo di privatizzarla per il 51%, abbiamo bloccato questo processo, e rispondo al sindacalista, perché è evidente che di fronte a questa situazione noi riteniamo che sia corretto e giusto che la regione disponga di uno strumento che possa utilizzare per modificare questo quadro. Poi lei, dottor Giannino, mi insegna che nella pianificazione dei trasporti, quando io decido di fare un collegamento da Genova a Cagliari o Civitavecchia piuttosto che Porto Torres o Olbia, sto indirettamente facendo programmazione anche su quello che è lo stato delle infrastrutture per la mobilità nel territorio, su strada. Allora, io, Presidente Cappellacci, io adesso devo concludere, mi devo scusare con Igor da Piacenza, Loris da Como, che abbiamo tenuto in linea. Igor da Piacenza, se è efficiente la sintesi, che fedele la sintesi che ha detto della sua presentazione, voleva dirci che all'inizio di aprile è comunque riuscito a trovare con solo 40 euro in più, con grandi navi veloci, però chiamando loro call center, avendo pazienza, perché da internet non c'era questa tariffa pochino più agevolata di quelle che invece offrono, che sono molto aumentate. E Loris da Como, che diceva bisogna molto distinguere tra la sovvenzione al turismo, che non bisogna fare, mentre la sovvenzione al diritto di trasporto costituzionale dichiarato in Sardegna sono due cose diverse. Benissimo, la mia conclusione personale è che questa iniziativa della Sardegna, sapete quanto io sia diffidente delle iniziative pubbliche, però qui il problema è un problema di lungo periodo. Qual è il problema di lungo periodo? per tanti anni aver dato così tanti contributi e sussidi alle piante organiche dei dipendenti di Tirrenia. Pensate che solo negli ultimi 5 anni, prima dell'esplosione finale, tra Stato ed enti locali, sono stati dati 1.100 milioni di euro a Tirrenia, che ne fatturava 800 rotti l'anno, e questo non è bastato a evitare il crack e l'esplosione di Tirrenia. Però il problema è che all'atto del dover decidere la privatizzazione, lo Stato non è stato capace di prenderla nella trasparenza, questa decisione, cioè non è stato capace di distinguere le tratte sussidiate da quelle in pieno esercizio commerciale, facendo bandi di gara in cui si diceva: chiunque si faccia avanti, questa è la base di sussidio per il diritto di tutela di trasporto costituzionale su questa e quella tratta, per il resto bisogna distinguere i diritti al sussidio pubblico che erano già incorporati in Tirrenia per gli anni a venire della concessione. Per non aver fatto questo, ecco che ci siamo trovati con privati, questa è la mia sensazione, non voglio sostituirmi a loro, loro hanno rifiutato di venire qui e hanno sbagliato, perché sembrano deboli e colpevoli non essendo venuti qua, però la sensazione è che i privati, di fronte a una procedura di privatizzazione non convincente, hanno detto: bene, adesso dove si può noi alziamo molto. Questa è la mia impressione, peccato che in assenza si ha sempre torto, e allora purtroppo i tanti cittadini italiani che si trovano a prezzi così elevati e poi pensano: ridateci lo Stato e chi se ne frega, anche se ci costa un po' di più, ecco che alla fine li regaliamo al sostegno di quella che è un'inefficienza, ma che appare però molto meno onerosa. È di questo che vivono i fallimenti dello Stato, e non solo, anche quelli del mercato, non capire le cose in trasparenza. Noi siamo un pochino anche qui per questo. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a tutti voi in ascolto, appuntamento domani di Nagione Radio. 9 in punto.